Bentornati su Radio Big World, è il dottor Pirates che vi parla. Prima di incominciare però vi devo dire una cosa. Vedete il mio nome sopra la lista di podcast, dottor Pirates? Se ci cliccate arrivate direttamente al mio canale YouTube. Sul mio canale di YouTube trovate un sacco di cose e soprattutto anche le recensioni degli ultimi film usciti al cinema. Per cui cosa state aspettando? Andate sul mio canale, iscrivetevi. Se vi piacciono i miei video, datemi like e soprattutto partecipate con le discussioni, scambiate pareri e dite le vostre opinioni. Vi aspetto. Bentornati nella mansarda del Dottor Pirates, miei piccoli mostri. Nello spazio nessuno può vedervi copiare un classico. Beh, non esattamente. Life paga un enorme tributo nei confronti di Alien e non potrebbe essere altrimenti, ma il cinema è una questione di come, non di cosa. Per cui ancora una volta siamo su una stazione spaziale. Gli astronauti e i ricercatori trovano una forma di vita proveniente da Marte, un piccolo essere che verrà chiamato simpaticamente Calvin, il quale porterà gioia e tripudio, festeggiamenti. Che bello! Non siamo soli nell'universo, però il piccolo Calvin, da essere microscopico, comincia a crescere, scappa dal laboratorio e quando si nutre cresce sempre di più, ed è cattivo. Calvin è cattivo dentro. E diciamo pure che è un autotreno di morte e distruzione. A questo punto, come debellare il feroce bestio spaziale? Beh, se finisce sulla Terra potrebbe fare un casino di dimensioni bibliche. Ci vorrà dunque l'ingegno dei ricercatori astronauti, anche se, dai, lo sapete come si fa fuori una creatura mostruosa se siete su una nave e o stazione spaziale. I classici film del genere saranno d'aiuto. Fondamentalmente, Life è un grosso B-movie, molto ben diretto, con scene mozzafiato, morti e uccisioni molto divertenti, ma che però vuole forse essere qualcosina di più, si vuole prendere forse un po' troppo sul serio. Inoltre non punta molto sulla tensione, sulla psicologia, sulla claustrofobia come il suo illustre ispiratore Alien. Le persone nella stazione spaziale sono dei pupazzi, fondamentalmente. Insomma, avranno anche dei quesiti etici, ognuno ha le sue personalità. C'è chi vede in Calvin una possibilità importante, poiché studiandolo si potrebbero scoprire delle cose pazzesche utili all'umanità. C'è chi invece lo vuole distruggere e basta, e ci si pone anche dei problemi riguardo a se Calvin dovesse arrivare sulla Terra e via dicendo. Però, francamente, non è questa la parte forte del film, e personalmente penso che non ne avesse bisogno, in particolare se realizzata in modo poco convincente, perché non è una pellicola che deve essere nobilitata, secondo me. Le cose belle sono le immagini molto potenti, i corpi fluttuanti nello spazio a gravità zero, la ferocia di Calvin. Ad Hollywood ogni tanto pensano forse di voler prendere due piccioni con una fava. Secondo me invece a volte è meglio seguire una via fino in fondo. Il film di per sé è solido, nonostante ci siano persone intelligenti che a volte fanno scelte stupide. Una metafora dell'umanità, suppongo. Può darsi, ma comunque ci pensa Calvin ad applicare il darwinismo. Dagli sceneggiatori di Deadpool e Zombieland mi sarei aspettato qualcosina di più. Gente che sa reinventare i generi classici. Vorrei vedere delle pellicole di questo tipo create con più voglia di osare. Sia chiaro, non è un brutto film. I film brutti sono altri. Penso però di essere stato chiaro. Queste sono delle mie considerazioni personali su come dovrebbero essere sviluppati certi film, allontanandosi da certi cliché e osando di più. In definitiva, se sei un B-movie travestito, stai soffocando parte della tua natura, e tanto lo spettatore apprezzerà quello che sei veramente, non lo strato che è stato aggiunto per rendere la pellicola più varia, più fruibile da tutti. Alla fine, riuscite a provare empatia per gli astronauti? Io no. A dire la verità, Calvin non è poi così carismatico come mostro. A tratti sembra un tentacolo, però ci regala delle belle uccisioni. Per cui diamo a Calvin ciò che è di Calvin, fa il suo compito. Il finale apre teorie interessanti, ma magari avete già letto qualcosina su internet al riguardo. Life non passerà alla storia, rimane comunque un film godibile, anche se nel periodo della sua uscita possiamo vantare ottimi film come Logan o Split, o divertenti baracconate come King Kong. rimane il rammarico perché si poteva fare di più, poteva essere molto molto più figo. Pace. E comunque ricordatevi, fate sempre il tifo per il mostro.